Sua bellissima relazione che veramente ha sfugiardato quello che ha detto in principio, che veramente magari potessi sfugiardarlo. È una bellissima cosa, è una bellissima e vivacissima relazione e credo che sia proprio adatta per introduzione al nostro seminario. Adesso credo facciamo 7 minuti di e 30 secondi. Bring Kelvins und spricht als erster Herr Professor Doria. Parla il professor Doria dell'Università di Genova, di una famiglia molto famosa. Sì. Questioni di conoscenza del mercato internazionale, sistema informativo, also über die Frage der Kenntnis der Marktfelde, des internationalen Markt und die Frage der Information über diese Marktbeziehungen, insbesondere in der zweiten Hälfte des 16. und im 17. Jahrhundert. Ja, Sie wollen cominciare? Danke. Dai primi decenni del Cinquecento, per circa un secolo, l'oligarchia finanziaria genovese, che coincideva poi con il ceto dei cittadini di governo, ovvero dei nobili che detenevano tutto il potere politico, ebbe una prodigiosa fioritura economica. Questo gruppo di persone conseguì brillanti risultati negli affari più disparati e su un vasto mercato che comprendeva tutta l'Europa occidentale, le coste del Nord Africa, le isole atlantiche e le terre dei Caraibi. Per far ciò dovette saper vincere agguerriti concorrenti e sfruttare al meglio le opportunità che si venivano delineando. Cercherò di esaminare alcune delle ragioni di questi successi, riallacciandomi alla brillante e intelligente introduzione del professor De Maddalena. Devo dire che le ragioni di questi successi sono un po' le ragioni del successo in campo internazionale della mafia. Fino al, e quindi io sono rappresentante di una cosca, fino al sesto e settimo decennio del Cinquecento i genovesi esercitarono con fortuna un'attività economica plurisettoriale, realizzando un certo equilibrio tra armamento, commercio, manifattura e finanza. Seppero sfruttare efficacemente il cambiamento rinascimentale della moda in Francia e in altre zone d'Europa occidentale, sviluppando l'industria serica. Tra il 1510 e il 1570 si ebbe una crescita delle esportazioni di tessuti di seta da 740 a quasi 1600 quintali annui, per un valore che tra il 1530 e il 1570 si aggirava e talvolta superava il milione di scudi d'oro. Si esportava in Francia soprattutto, in Alemagna, Fiandre, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Chio, Algeri, Canarie e in tutta la penisola italiana. Erano genovesi i più forti acquirenti di seta greggia sui mercati di Messina e di Granata. Anche sul mercato della lana greggia avevano posizioni predominanti, infatti Carandia parla per la Spagna di inerenza avassaladora de los genoveses e nel commercio interior della lana. Nella seconda metà del Cinquecento le sole esportazioni di lana dalla Spagna verso l'Italia passavano da 12 a 20 mila quintali annui, equivalenti al prodotto di circa 460.000-770.000 ovini. Sempre in relazione all'industria tessile, i genovesi avevano detenuto tra la fine del XIII e la metà del XV secolo il controllo monopolistico della lume sfruttando le miniere di Focea. Un secolo circa dopo la conquista turca, i genovesi, con una manovra tenaglia, riconquistano il monopolio assicurandosi la gestione delle due più importanti miniere europee dell'epoca, quelle di Massaron in Spagna e di Tolfa nello Stato della Chiesa. Già nel 1553 i Sauli e i Di Negro sono in grado di importare ad Anversa 1600 tonnellate annue di alume, quantità sufficiente a rifornire tutta l'Europa settentrionale. Nel 1578, quando le miniere di Tolfa passano ai fiorentini, i Pallavicino dispongono di 10.000 tonnellate di minerale di scorta, pari al fabbisogno europeo per circa 6 anni. Nel settore zuccheriero i genovesi svolsero un ruolo di primaria importanza almeno fino ai due terzi del Cinquecento. È nel corso del Cinquecento che questo prodotto si trasforma da medicina a vivanda e vede dilatare il suo consumo. I genovesi conservano le posizioni che avevano di coltivatori e mercanti in Portogallo e in Sicilia, ma si spingono dalla seconda metà del 400 a Madeira, nelle Canarie e nelle Azzorre. Nel 1526, per esempio, controllavano il 58% del commercio zuccheriero delle Canarie. Poi si spingono ancora più lontano e possiedono piantagioni e molini in Brasile, nei Caraibi, a San Tomé, nelle isole Capoverde. La marina di Genova era tra le marine cristiane mediterranee, seconda solo a quella veneziana all'inizio del Cinquecento. Negli anni di Lepanto fu superata anche da quella ragusea. Comunque, tra l'inizio del Cinquecento e la metà del secolo, raddoppiò quasi la sua capacità di carico, passando dalle 15 alle 29.000 tonnellate. Ma nel Cinquecento il mercato che tirava di più era senza dubbio il mercato della guerra. In questo campo i genovesi, più come businessman che come guerriere per la verità, si inserirono di prepotenza. È un capitolo noto della storia economica che tra l'altro conta qui, in questo seminario, specialisti in sì. Mi limiterò quindi a richiamare solo alcuni dati fondamentali della questione per mettere in risalto il volume degli affari e quanto i genovesi ci guadagnavano. Innanzitutto come assentistas di galere. Tra il secondo decennio del Cinquecento e il 1575 vi erano costantemente dalle 20 alle 30 galere da guerra di alcuni nobili genovesi noleggiate soprattutto alla Spagna ma anche altre potenze. Dal 1576 fino al 1640 le galere genovesi al servizio degli spagnoli oscillavano tra le 15 e le 22 unità. In pagamento di questo servizio affluirono a Genova tra 120 e 240 mila ducati annui dal 30 alla fine del secolo. Tra 147 mila e 222 mila ducati annui nei primi 40 anni del 600. Ma ben più importanti degli assentos di galere furono gli assentos finanziari. Sotto il regno di Carlo V i genovesi prestarono tra il 1520 e il 51 cifre pari al 30-40% del totale dei prestiti contratti dall'imperatore. Dal 52 al 56 superarono il 50%. Secondo i calcoli di Carande, l'utile medio annuo realizzato dai genovesi equivaleva a 94 kg di oro annuo negli anni 20, 2 quintali e 2 negli anni 30, 4 quintali e mezzo negli anni 40, 24 quintali, 4 negli anni 50. Sotto i regni di Filippo II e Filippo III continuò l'ascesa. Nel 1575 i genovesi erano creditori con oltre 13.000 ducati del 63% dei prestiti colpiti dalla sospensione dei pagamenti. Nel 1596, data della successiva sospensione, i crediti genovesi erano pari al 75% del totale. Nella bancarotta del 1607 erano creditori di circa 10 milioni di scudi d'oro. Con Filippo IV nel 1627 essi pretendevano un credito maturato di 13 milioni di ducati per prestiti in corso di 6,6 milioni. Non finisce con questa data l'impegno genovese con la corona spagnola, almeno sotto il profilo del recupero dei crediti. Se consideriamo ad esempio il flusso di argento dalla Spagna a Genova, una media annua di 400 quintali nel primo decennio del 600, di 800 quintali nel secondo decennio, 900 quintali nel terzo decennio e quasi 1000 nel quarto decennio. I prestiti alla corona spagnola non esaurivano gli investimenti esteri genovesi che, come noto, si andavano dalla fine del Cinquecento orientando sempre più verso la penisola italiana e in quest'area si aggiravano, grosso modo, verso il 1630 sui 20 milioni di scudi. Per riuscire brillantemente in questo complesso gioco finanziario, i genovesi dominarono, come noto, tra il 1535 e il 1622 le fiere dei cambi di Besançon-Piacenza, lo strumento regolatore del più vasto circuito di mercanzie, denaro e credito, la principale stanza di compensazione, il centro focale dei cambi dell'Europa occidentale. Nelle fiere, nell'ultimo quarto del Cinquecento, il solo giro d'affari annuo da e per Genova oscillava tra i 10 e i 30 milioni di scudi per raggiungere i 45 milioni nelle quattro fiere naturalmente del periodo 1601-1605. Ora, le multiformi attività che qui abbiamo rapidamente accennato facevano capo a un numero relativamente ristretto di imprenditori residenti a Genova. Negli anni 60 del Cinquecento i finanzieri genovesi che frequentavano le fiere sono circa 50-60. Nel 1587, secondo un'autorevole testimonianza, coloro che a Genova sono in grado di operare su scala internazionale contemporaneamente nel trading delle merci e nell'alta finanza sono 40 famiglie. All'inizio del Seicento quelli che contano nelle fiere sono 60-80 finanzieri. La concentrazione dell'attività economica corrisponde alla centralizzazione della ricchezza. Verso la fine del XVI secolo erano 125 i nobili genovesi con un patrimonio superiore ai 50.000 scudi d'oro. Era quel 9% dell'aristocrazia cittadina che possedeva il 49% dell'intera ricchezza del ceto nobiliare. Il successo di questa ristretta elite su uno scacchiere internazionale e contro agguerriti concorrenti non dipendeva né da una superiorità di risorse finanziarie disponibili né dal sostegno di uno Stato, la Repubblica di Genova, particolarmente potente. Esistevano allora nella Germania meridionale, nei Paesi Bassi, nelle città italiane, Firenze, Milano, Venezia, nella stessa penisola iberica, abbondanza di capitali e una notevole vivacità economica. E Genova era solo una media città di 50-60 mila abitanti, capitale di un piccolo stato regionale di 250 mila abitanti, praticamente privo di una forza armata statale, di fatto vassallo della Spagna. Qual era dunque il punto di forza dell'azienda Genova, come si suole dire oggi in linguaggio politico corrente? La riuscita nel mondo degli affari è da attribuire, a mio avviso, a parte i metodi mafiosi, alla capacità di un gruppo omogeneo di elaborare una solida strategia di base, quella che i moderni studiosi del management chiamano la corporate strategy, articolata nel tempo in opportune strategie subglobali, le business strategy, assunte con tempestività. Sta cioè la riuscita nella capacità di elaborare quello che gli studiosi attuali del management moderno chiamano un percorso strategico vincente. Ora, non c'è dubbio che anche nei secoli passati, come oggi, per poter elaborare una corretta strategia fosse necessario aver chiare le determinanti oggettive dell'agire strategico, cioè il sistema dei vincoli e dei condizionamenti esterni dello scenario nel quale l'impresa operava e le opportunità offerte da un mercato in continua evoluzione. Preliminare quindi alla formulazione delle scelte che sostanziavano una strategia competitiva, preliminare cioè al che fare, deve essere un'analisi accurata dei dati ambientali, l'analisi del settore, della concorrenza, dell'ambiente economico e sociale, il rilevamento dei punti di forza e dei punti di debolezza. Era, allora ed è oggi, indispensabile un efficiente sistema informativo che consenta di disporre di una ricca serie di dati costantemente aggiornati e attendibili. Brodel scrive a proposito della formazione culturale dell'imprenditore tra Medioevo ed età moderna: «Pas de capitalisme marchand sans apprentissage, sans instruction préalable, sans la connaissance». Ma aggiunge subito, riferendosi all'importanza delle corrispondenze mercantili, s'informer compte plus encore que se former. E la lettre est au premier chef information. L'utilità e la ricchezza di queste corrispondenze sono note, attraverso gli studi di Sapori, di Vasquez de Prada, Ruiz Martin, Lapere, Melis, Bolan, Gentil da Silva, Tucci ed altri. E basti pensare alle 50.000 lettere degli archivi di Simone Cosimo Ruiz, alle 150.000 lettere del Fondo Latini per comprendere come si tratti di vere e proprie banche dati. Queste informazioni non vanno però considerate solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo. È ovvio infatti che queste informazioni valgono tanto più quanto più sono notizie esclusive, non ancora a conoscenza della concorrenza, e quanto più sono ricche di valutazioni attendibili sullo svolgimento futuro dei processi economici. Sono quindi necessari degli informatori altamente professionalizzati, sparsi ovunque, inseriti nelle varie stanze dei bottoni, a conoscenza cioè degli orientamenti decisionali sulle diverse piazze, informatori con solide relazioni sociali. Ebbene, è proprio in questo senso, a mio avviso, che i mercanti banchieri genovesi godevano, tra l'inizio del Cinquecento e l'inizio del Seicento, di una situazione di netta superiorità rispetto ai loro concorrenti europei. Esisteva infatti una vasta e qualificata diaspora genovese che aveva assunto la sua nuova connotazione già verso la fine del Quattrocento. Una documentazione del 1536, per esempio, censisce i componenti di 12 alberghi, dei 28 che componevano la nobiltà. Censisce cioè 676 persone, circa un terzo dell'intero corpo nobiliare. Di costoro, 188, pari al 28%, risiedono fuori della Repubblica di Genova. Se il campione è valido, i residenti nobili fuori dalla città dovrebbero essere 540. Nel 1536. Nel 1575 un acuto osservatore della realtà genovese, Giulio Pallavicino, afferma che normalmente erano assenti da Genova la metà circa dei nobili vecchi e la terza o quarta parte dei nobili nuovi, quindi più o meno 700 persone, il 37% del patriziato urbano. Dove erano questi genovesi? Intanto nel Mediterraneo orientale. L'isola di Chio, occupata e governata dai genovesi alla metà del 300, cade in mano ai turchi solo nel 1566. Ma fino alla fine del 600 vi risiede una numerosa nazione genovese, tra cui decine di nobili. Ma intorno a questo punto focale dei traffici orientali resiste, anche nei domini della sublime porta, tutta una corona di piccole e operose comunità mercantili genovesi che sono segnalate nel 500 a Caffa, Pera, le vecchie colonie, ma non solo in queste, Alessandria, Corfù, Famagosta, Negroponte, Candia, Tripoli, Tiro, Beirut, Aleppo. C'è anche chi non esita a farsi musulmano per far carriera nell'impero turco. C'è per esempio un Bagliani, fratello, che diventa musulmano, fratello di un monaco cassinese, e due Cigala, che diventano rispettivamente governatore e ammiraglio del sultano, e che sono fratelli di uno dei fondatori di un ordine cavalleresco, l'Ordine della Stella, il cui compito istituzionale è la lotta all'Islam. Non meno stretti sono i legami con l'area maghrebina. A Orano operano Cattaneo e Lomellini tra 4 e 500, a Calle e Tunisi all'inizio del 500 vi sono nazioni genovesi con ricchi fondaci. Dal 1543 poi l'isola di Tabarca sulla costa tunisina passa ai Lomellini per due secoli e avrà nel 1603 una popolazione di 1500 genovesi, sempre con la presenza dei Lomellini, che esercitano la pesca al corallo, la sua lavorazione e i ricchi traffici con le coste nordafricane. Negli stati italiani la diaspora genovese era naturalmente capillare e numerosa. In Sicilia era iniziata con Federico II, ma aveva preso nuovo slancio alla fine del 400. Nel 500 e nella prima metà del 600 operano costantemente a Palermo 30-40 mercanti dell'aristocrazia genovese. I genovesi avevano a Palermo un loro quartiere con loggia mercantile e chiesa. A Messina si incontra pure una numerosa colonia genovese, ma sono diffusi in tutta l'isola. Gli studi di Trasselli ce li hanno segnalati a Corleone, Agrigento, Licata, Noto, Enna e numerose altre località. Ed erano diffusi e autorevoli. Non per niente comincio dalla Sicilia. E presenti fra le massime autorità civili, perché maestri portulani, prefetti di granai, tesorieri generali, presidenti del Tribunale della Regia Corte e perfino col cardinale Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo, presidente del Regno e viceré di Sicilia. In Sardegna vi sono insediamenti mercantili genovesi a Cagliari, Sassari, Alghero e Castellaragonese. Per il Regno di Napoli non mi resta che ricordare gli studi di Galasso con la pietra, Coniglio, Muto, Mantelli, che hanno già a fondo studiato il problema. Alcuni dati quantitativi solo. Il solo lavoro di Colapietra, dal Magnanimo a Masaniello, segnala il nome di 81 nobili genovesi operanti nel regno tra il 1525 e il 1550 e di 263 nomi per il periodo 1551-1600. Nel 1654, quando fu emesso l'ordine di espulsione dei genovesi per sgomberare la sola colonia genovese di Napoli, già in parte fuggita a Roma, fu necessario noleggiare un brigantino e due felucche. Ma anche a Napoli, come per la Sicilia, vale la pena di rilevare due elementi. Come i genovesi, attraverso l'attività mercantile finanziaria e attraverso le infeudazioni, fossero sparsi in tutte le province del regno. Come fossero inseriti, secondo elemento, nella macchina amministrativa e nei centri di potere. Tra l'inizio del Cinquecento e la metà del Seicento si contano tra i genovesi almeno 13 vescovi di diocesi meridionali del Regno di Napoli, 11 percettori provinciali, 6 tesorieri, 13 tra arrendatori, esattori e doganieri, 4 conservatori del Regio Sigillo, 2 mastri di zecca, 2 protonotari del Regno, un procuratore fiscale della Somaria, un governatore delle terre di Bari ed Otranto, un factor general, un presidente del Sacro Real Collegio, un regio credenziere del Portolano e Terra di Lavoro, un presidente di Camera, oltre ai vari governatori dei molti stati feudali genovesi in Campania, Puglia e Calabria. Risalendo la penisola, Roma. Il ruolo dei genovesi nella gestione della finanza papale è stato ampiamente illustrato da diversi studiosi, tra cui Delumont. Il predominio si manifesta nell'ultimo ventennio del XVI secolo. Ma già nel 1536 sono presenti a Roma 25 nobili genovesi e ancora nel 1608 se ne contano dai 25 ai 30 colà residenti. Anche qui essi sono annidati nei centri del potere. Si inizia ai primi del Cinquecento, periodo in cui risiedono a Roma 10 cardinali e un prefetto di Roma, Liguri, di cui 5 della famiglia della Rovere. Poi nobili genovesi sono a capo della depositeria generale per oltre metà degli anni che intercorrono tra il 1484 e il 1605. Tra 1580 e 1619 alla depositeria dell'Abbondanza si avvicinano Spinola, Centurione, Pinelli, Giustiniani e Costaguta. Dal 1532 al 76 Grimaldi, Saudi e Palavicini sono appaltatori, come abbiamo detto, delle miniere di Tolfa. Ancora genovesi gestiscono negli ultimi tre decenni del Cinquecento la dogana del patrimonio e la tesoreria generale. Altri genovesi operano a Bologna alla fine del Cinquecento. Non si hanno molti studi per il Granducato di Toscana, ma anche lì i mercanti genovesi non mancavano. Nelle mie ricerche ho trovato la documentazione della presenza di 14 mercanti operanti a Firenze tra 1572 e 95, 3 mercanti operanti a Pisa tra 63 e 73, 2 a Livorno tra 74 e 84. A Milano, la finanza genovese era già in posizione eminente ai tempi del Duca Francesco II. Basterà poi ricordare i nomi di Domenico Sauli, dal 1521 per un ventennio presidente del magistrato delle entrate ordinarie, di Tommaso Fornari, tesoriere dal 1536 dell'esercito imperiale, di Ottobono Giustiniani, componente negli anni 50 di quello che Chabot definisce il triunvirato che ridirigeva di fatto le questioni della finanza pubblica, dei fratelli Giovanni e Tommaso Marino, troppo noti per parlarne, ma ricordiamo la ferma del Sale, la carica di commissario generale del mensuale. Anche a Venezia, benché fuori dall'orbita spagnola e benché antica rivale di Genova, anche Venezia vede mercanti genovesi negoziare sulle rive dei suoi canali. Nel 1536 si conta una dozzina di nobili colà residenti, negli anni 80 la nazione genovese è forte di 22 mercanti, di cui 10 nobili, e dispone di un proprio regolare servizio postale. Altre presenze di imprenditori genovesi si possono rilevare negli stati italiani dei Savoia e dei Gonzaga. Ma la vera forza degli hombres de negocio di Genova stava nel frequentare e conoscere accanto contemporaneamente al Mediterraneo e alla penisola italiana anche l'Europa del Mare del Nord e dell'Atlantico. Intanto l'area francese, o piuttosto francofona, cioè il Regno di Francia e gli stati vicini di lingua francese. A Lione la presenza più importante. dall'inizio alla fine del Cinquecento di soli nobili si contano costantemente dai 10 ai 20 individui genovesi operanti a Lione, dall'inizio alla fine del Cinquecento, operanti sulla piazza di Lione. A Marsiglia la colonia Ligure è la più numerosa delle colonie straniere, sono i principali esportatori del porto francese fino alla metà del secolo. Ma la conoscenza dell'area francese non deriva solo da questi due capisaldi. Esiste anche per questa zona il fenomeno della diffusione, indice della vivacità dell'intrapresa economica. È infatti documentata la presenza di genovesi operanti nel XVI secolo a Avignone, Alto, Lone, Nizza, Villefranche, Moulinest, Lons, Le Saunier, Besançon, Ginevra, Rouen, Tours, Mons, Nancy, Tournai, Rouen e anche Parigi, dove un De Magdalena, il tuo antenato del quale abbiamo parlato, a Prato, che prima stava a Genova, poi a Lione, diventa ugonotto. E dove del bene, un altro genovese, aveva fatto per 20 anni l'agente segreto dell'ugonotto Enrico di Navarra e poi di Elisabetta I. La liaison tra Mediterraneo e Mare del Nord si concludeva coi porti delle Fiandre. A Bruges, prima, dove la nazione genovese risiedeva con privilegi concessi da Filippo l'Ardito dalla fine del 300, ma è ancora ricca attiva nel 1522, ma soprattutto ad Anversa. Ora, gli studi di Goris, de Musset, Van Houtte, Vasquez de Prada e una recente tesi di dottorato della dottoressa Becca all'Università Europea di Firenze consentono di fare un quadro preciso della situazione. Dal 1493 al 1540 le ditte genovesi operanti contemporaneamente nel porto fiammingo oscillavano tra le 6 e le 27 unità. Nel successivo ventennio il loro numero varia tra 36 e 57 le ditte, ma un rilevamento del 1550 dimostra che i mercanti genovesi a Anversa sono oltre 70. Poi, dopo la riconquista di Farnese, si contano sempre almeno 10-15 presenze. È inutile in questa sede ricordare il ruolo dei finanziamenti alla politica spagnola su questo scacchiere, e se ne parlerà nei prossimi giorni, e ai governi di Bruxelles e alle armate delle Fiandre. Basti pensare al lungo comando militare di Ambrogio Spinola, personaggio al contempo banchiere generale, ma soprattutto banchiere e organizzatore. Le vaste e meticolose ricerche del professor Hermann Kellenbens ci hanno fatto conoscere l'attività e la presenza dei genovesi nel mondo germanico, presenza che è meno rilevante e più sporadica che in altre zone, ma è pur sempre significativa. Voglio perciò solo indicare, richiamando gli studi del professor Kellenbens, le località di quest'area linguistica in cui hanno operato nel Cinquecento imprenditori liguri: Colonia, Norimberga, Lubecca, Amburgo, Emden e fuori proprio ma sempre nell'area linguistica, Vienna e Basilea. E anche a Danzica, verso la fine del secolo, erano insediati stabilmente mercanti genovesi dediti al commercio dei grani polacchi. Perfino nel cuore dell'antagonista principe della Spagna, a Londra, la diaspora genovese era autorevolmente rappresentata. Spinola e Grimaldi operano a Londra all'inizio del Cinquecento, la nazione genovese prospera nella prima metà del secolo. Poi, nella seconda metà del secolo, la colonia genovese è dominata dalla figura di Orazio Pallavicino, comproprietario dell'impresa della Lume di Tolfa. Figlio del titolare della depositeria generale del Papa, diventerà suddito inglese, protestante e ambasciatore, consulente economico, agente segreto di Elisabetta I, finanziatore della guerra delle Province Unite. dalla parte delle Province Unite naturalmente. Un aspetto interessante da rilevare proprio nel quadro di quello che diceva De Maddalena alla Repubblica Internazionale del Denaro è che Orazio Pallavicino continua a essere legatissimo a Genova città. Non si interrompono mai le sue strette relazioni d'affari con la famiglia. Nella carestia del 1521 è lui che assicura la libera navigazione di tutte le navi granarie che riforniscono Genova. Ed è interessante notare che è alla diaspora genovese che Orazio Pallavicino si appoggia a Londra per costruire la sua rete di agenti segreti. Il libro di Stone cita ben 8 mercanti genovesi che fanno parte del suo servizio, tra cui un Giustiniani, un Calvo, un Graffigna, un Centurione. Nello stesso periodo, naturalmente, altri genovesi di Londra, come Benedetto Spinola e Paolo Grimaldi, fanno l'informatore degli spagnoli. La più massiccia presenza all'estero dei genovesi si situa però nella penisola iberica. Anche qui il fenomeno è noto grazie a illustri studiosi come ancora il professor Kellenbens, Felipe Ruiz Martín, il professor Otte, Vázquez de Prada, Benassar, Verlinden, Lapeyre, Ortiz, Carande e molti altri. Vorrei qui solo ricordare la loro diffusione, perché sono indicati gruppi operanti lungo l'arco del XVI secolo a Siviglia, Barcellona, Malaga, Cadice, Granada, Jerez de la Frontera, Puerto Santa Maria, Palma del Rio, Murcia, Cordova, Valencia e qui taglio corto, Cartagena, Alicante, Toledo, Cuenca, Almeria, Almagro, anche in città minori, Valladolid, Madrid, Burgos, Segovia, Saragossa, Larghero, Villanueva, della Fuente e perfino in Galicia. Ancora un altro aspetto, sempre per questa presenza in Spagna. Traiano Boccalini scriveva all'inizio del Seicento: «Gran meraviglia a tutti che rimirano si potente reina, la Spagna, arreca il vedere che tutta la vita di lei sia piena di sanguisughe, per la maggior parte genovese». E Don Felipe Ruiz Martín afferma: «Los genoveses consiguen un sistema», parlando dei genovesi in Spagna, «los genoveses consiguen un sistema serrado, un sistema firme, che a pesar de toda oposición de los españoles, los genoveses consiguen firmemente assentarse sobre el poder». E questo significa che anche qui funzionava l'internazionalismo di cui parlava De Maddalena, per cui i genovesi erano diventati arrendatari di tasse, imposte, dazi delle miniere di mercurio e di Almaden, come lo erano di quelle di allume di Massaron, erano alcaldes, factores, amministratori della Casa de Contratación, componenti del Consejo de Guerra e del Consejo de Hacienda. A Lisbona i genovesi già numerosi alla fine del 400 crescono ancora di numero nel 500. Sono presenti le principali famiglie nobiliari di Genova, i cui membri diventano anche cavalieri di casa reale e ufficiali della Marina Statale portoghese. Dalla penisola iberica i genovesi fecero poi il balzo verso gli arcipelaghi atlantici e verso le Americhe. Almeno 16 famiglie dell'aristocrazia genovese sono impegnate alla fine del XV secolo e nel XVI secolo nell'affare dello zucchero a Madeira, 5 nelle Azzorre e 22 nelle Canarie. Anche nel nuovo continente, nelle Antille, in Messico, a Panama, in Perù e in Cile, si riscontrano nei pochi studi effettuati sull'argomento traccia di una settantina di famiglie di mercanti genovesi, quasi tutti appartenenti al patriziato. E alcuni raggiungono anche cariche di rilievo, come il Pastene che fonda Valparaiso e diventa presidente del Consiglio Coloniale a Santiago del Cile fino alla sua morte nel 1583, o come un De Marini che negli anni 40 è in Messico commissario delle finanze e compie grossi investimenti nelle miniere di Zacatecas. Altri poi si installano in Brasile, sempre operanti nel settore zuccheriero. Ora, tutti questi genovesi, dispersi per il mondo, e soprattutto i genovesi ascritti alla nobiltà, erano legati ai loro concittadini da profondi vincoli di solidarietà. Non solo la comune terra di origine, il comune status di ceto di governo della Repubblica e soprattutto di gestori della Casa di San Giorgio, ma anche dalla funzione aggregativa delle potenti organizzazioni assistenziali a carattere familiare, dalla endogamia del patriziato che raggiungeva i livelli dell'80-85%, dalle molteplici società, partecipazioni, cointeressenze, colleganze, procure, anticipazioni, garanzie e prestiti che li legano in modo reciproco e indissolubile nel mondo degli affari. Gruppo sociale compatto e omogeneo per i comuni interessi e nello stesso tempo diffuso geograficamente. Altro elemento unificante era rappresentato da un particolare tipo di preparazione professionale, di cultura. È quel tipo di formazione culturale di cui parlava Franco Borlandi a proposito dei mercanti genovesi. Diceva lo scagno, cioè l'ufficio in genovese. Lo scagno, il fondaco, la nave diventavano le loro palestre e la loro formazione si completava nel contatto immediato con paesi e con uomini nuovi, arricchendosi ogni giorno. Una cultura empirica, pragmatica dunque, ma anche cosmopolita, costruita su tutta una serie di esperienze diversificate. Rifacendo le biografie degli oligarchi genovesi del Cinquecento, è difficile incontrare un personaggio che non abbia nel suo curriculum diverse permanenze all'estero, nel Mediterraneo, nel Meridione Italia, a Milano, nelle Fiandre e in Spagna, a Roma e in Francia. Conoscendo dunque cosa accadeva nella sfera della domanda e dell'offerta, ben sapendo quale importanza avesse l'informazione per poter prevedere, i genovesi della diaspora e quelli della madrepatria si scambiavano una fitta corrispondenza piena di notizie. Erano, grazie proprio alle esperienze internazionali collettivamente maturate, buoni compilatori e buoni interpreti di lettere mercantesche, in grado di valutare la preziosità dei vari dati. Un mercante a Genova, per esempio, estraeva, sintetizzava quanto gli scriveva un corrispondente di Siviglia e ne ritrasmetteva il contenuto essenziale ai propri amici, soci o parenti che operavano a Napoli, a Venezia, a Lione o ad Anversa. La merce informazione veniva così riciclata, dava il suo massimo rendimento possibile, le banche dati venivano così socializzate, sempre all'interno della propria casta, questo si intende. Con alcuni sondaggi abbiamo voluto verificare le caratteristiche della corrispondenza degli imprenditori genovesi nel XVI e XVII secolo. E io mi sono permesso di distribuire alcuni schemi, loro per facilitare e non costringermi a dire cose che lì sono rapidamente riassunte. Innanzitutto l'esempio di un genovese della diaspora, Teramo Brignolo, il primo foglio, di una famiglia di setaioli, mercanti e anche finanzieri. Questo personaggio ha compiuto permanenze più o meno lunghe, da alcuni mesi ad alcuni anni, ad Anversa, Siviglia, Napoli, Palermo, Messina, Roma. Dal 1582 al 1625 si ferma a Firenze. 5 anni come mercante, 38 anni come frate domenicano. proprio da Firenze, qua si riferisce alla sua corrispondenza a Firenze, egli scrive in meno di 5 mesi 545 lettere, cioè 114 al mese, a 86 corrispondenti, di cui 73 genovesi. Di questi 51 risiedono nella Repubblica di Genova e 22 fuori dalla Repubblica. Ai 50 corrispondenti, quasi tutti nobili, residenti nella città di Genova, egli invia una media di 56 lettere al mese. L'altro esempio, un mercante residente a Genova, Giobatta Fornari, nobile nuovo di media ricchezza, ha un patrimonio di circa 24.000 scudi d'oro, commercia in vari generi, seta, lana, velluto, zucchero, eccetera, e fa operazioni di cambio. In due anni, 1582-84, egli scrive 745 lettere, oltre 30 al mese. Escludendo le lettere di fiera, corrisponde con 72 mercanti in 22 località diverse fuori dalla Repubblica di Genova, di costoro 54 sono genovesi sparse in varie città. Il terzo esempio si riferisce a Francesco Di Negro, mercante di lana, sete, velluti, panni, formaggi, oro, sale, zucchero, vini, corallo, grano, eccetera. Traffica con tutta l'Italia, l'Egitto, Algeri, Spagna, Portogallo, Canarie, Fiandra, Olanda e Germania. Il suo patrimonio passa da 3.000 scudi nel 1561 a 53.000 scudi nel 1596. Di lui restano alcuni copialettere che coprono un tempo reale di poco più di 5 anni, sparsi tra il 1563 e il 91. Il Di Negro scrive in questi 61 mesi 2.436 lettere, 40 al mese, e corrisponde con almeno 122 genovesi residenti fuori dalla Repubblica di Genova in 28 diverse città, di cui 17 esterne all'Italia. Il quarto esempio, quello più completo, forse è quello di Antonio Brignole, fratello di Teramo, nobile nuovo, prima setaiolo, poi grande mercante, infine finanziere. Il suo patrimonio è di 73.000 scudi d'oro nel 1573, circa 20 anni dopo, nel 1596, è più che raddoppiato e ammonta a 181.000 scudi d'oro. Di lui una serie di 15 copialettere in partenza copre un tempo reale di 17 anni e mezzo, sparsi tra il 1572 e il 1604. In questi 17 anni e mezzo, il Brignole corrisponde con 429 genovesi, residenti fuori dalla Repubblica di Genova, 214 in 17 città italiane, 128 in 15 città della penisola iberica, 87 in 10 città d'Europa e una perfino africana. Il nostro Brignole ha scritto in 17 anni e mezzo 12.494 lettere, una media di oltre 59 al mese, riempiendo 9.066 carte, 35 cm per 24, con circa 30-32 righe per carta. Negli anni 1587-88 la media delle lettere scritte era rispettivamente di 130 e 146 al mese. Poiché la quasi totalità delle lettere e anche una risposta a lettere ricevute, si può desumere che mediamente negli ultimi 32 anni della sua attività, ogni giorno dallo scagno del Brignole arrivassero due lettere e ne partissero altre due. L'epistolario di suo figlio Gio Francesco è un epistolario meno ricco. Gio Francesco, che sarà anche doge di Genova, è ancora sì un mercante di lana, seta, grano, olio, pepe, ma è soprattutto un finanziere e un rentier, un proprietario di titoli pubblici. tra il 1605 e il 1616 scrive solo 1486 lettere da fare, con una media di poco più di uno ogni tre giorni. Ma la rete dei corrispondenti genovesi all'estero resta ampia. 82 residenti in 24 diverse città, di cui 11 in Italia e 13 fuori d'Italia. L'ultimo esempio è interessante perché si colloca in un periodo, il 1631-1655, che è già fuori da quel secolo dei genovesi definito temporalmente da Don Felipe Ruiz Martín. Due fratelli Durazzo, Giacomo, Filippo e Gerolamo, che operano congiuntamente come finanzieri internazionali. Tra il 1635 e il 1655 essi ricevono 3601 lettere mercantili più circa 2000 lettere di fiera e comunicazioni relative agli juros spagnoli. Senza contare queste, cioè le lettere di fiera e le comunicazioni sugli juros, una media di 14 al mese. Tra il 1631 e il 1655 essi scrivono lettere d'affari che riempiono 3380 carte delle dimensioni che io ricordavo prima, con una media di 11 carte al mese. Corrispondono con 38 città fuori dalla Repubblica di Genova. In questi 25 anni, dal 31 al 55, hanno scritto e ricevuto lettere da ben 157 genovesi residenti fuori dalla Repubblica, 81 in 11 città italiane, 56 in 9 città della penisola iberica, 20 in 5 città del resto dell'Europa. Per concludere, chiedendo scusa della lunghezza del mio intervento, io credo che difficilmente nel corso del Cinquecento e nei primi decenni del Seicento altre oligarchie cittadine potessero disporre, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, di un sistema informativo così solidamente basato su una vastissima, sempre vigile rete di referenti, sicuramente reliable, costantemente impegnati ad arricchire il patrimonio delle conoscenze utili e indispensabili all'agire economico di cui parlava De Maddalena. E questo, sempre a mio avviso, il know-how che faceva tirare allora l'azienda Genova, così come oggi il sapere scientifico e tecnologico costituisce il vero punto di forza dei paesi più industrializzati. Grazie. Ringrazio al professore Toria per questa ricchissima relazione sull'attività dei mercanti genovesi nel 500 e la prima metà del 600. Come faremo adesso? Io darò un riassunto in tedesco. Forse c'è il tedesco di lange per secondo. Ja, Viertelstunde, wir haben ja Zeit bis nach eins. Paolo, quando dobbiamo essere? Lune e mezza. Allora c'è tempo. Si lavora fino a un quarto, non c'è niente. E poi aprite la porta di dietro e noi andiamo attraverso il giardino, no? Kurze Zusammenfassung des sehr reichhaltigen Referats von Herrn Professor Doria. Das ist eine unglaubliche Arbeit, die dahinter steckt, diese Korrespondenzen alle zusammenzustellen. Weil Mafiosi lavorano. Mafiosi. Sono un gruppo di Mafiosi. Der Ausgangspunkt des Referats von Herrn Doria ist zunächst einmal eine allgemeine Charakterisierung der Stellung der Genuesen im Rahmen der internationalen Bankwelt und Kaufmannswelt zunächst die umrissen, das internationale Netz, auf das es später zurückkommt, der wichtige Familienzusammenhalt, diese, wie er sagt, Kaste, war durch vielfältigste Verbindungen miteinander versiegt. Und dazu kommt die wichtige politische Stellung seit der Umwälzung von 1528. Von da ab beginnt dann diese große Epoche der Genuesen in der internationalen Bankwelt. Und ein besonderes Schwergewicht im Rahmen dieser Beziehungen spielten natürlich die Beziehungen zur Habsburg, zur spanischen Krone. Auf der Basis von zwei Vertragsmöglichkeiten. Die eine ist dank der besonderen Situation von Genua als Hafen der Assento di Galera, also der Vertrag der Galeerenlieferung, der Stellung von Truppen und Mannschaften und so weiter, von Schiffen. Und das zweite ist der berühmte Asiento-Vertrag, der die Vereinbarung der Geld des Kredits an die Krone. Diese große Zeit setzt ein mit Karten 5, so geht über Philipp II., Philipp III. Bis unter den großen Bankrott von 1627. Der Kollege Vasquez de Prada wird darüber noch einiges sagen. Und dazu kommt der besonders wichtige Einfluss der Genuesen auf den sogenannten Westen von Besançon und Piacenza. Diese Alternative zu den Messen von Lyon, die zunächst in Besançon unter Karl V. eingeleitet wurde und dann später sich mehr und mehr nach Piacenza verlagert und die man einfach auch als die Messen der Genuesen bezeichnet hat, wegen der starken Rolle. Die Zahl der Genuesen, die in diesem internationalen Wirtschaftsnetz tätig waren, liegt zwischen 50 Cinquanta und 80 Ottanta. Ungefähr. Sie schwankte etwa in der Zeit, aber es sind ungefähr so viel. Und es waren 9% der gesamten Bevölkerung hatten vom gesamten Vermögen der Republik etwa 49%, also etwa die Hälfte lag in den Händen dieser. 9% del Patrimonio, also 9% hatten gewissermaßen die Hälfte des Adels. Des Adels, also eine Gruppe des Adels hatte die Hälfte des Patrimonios. Und nun die Frage, wie war es überhaupt möglich, dass diese Gruppe sich in dieser Weise in der internationalen Finanzwelt behaupten konnte, und seine Auffassung ist die, es war nicht nur die Tatsache, dass große Kaufleute gleichzeitig auch wichtige Bankiers, wichtige Kaufleute waren und über entsprechende Möglichkeiten innerhalb des Landes verfügen, sondern es war eine ganz bestimmte Strategie, ein ganz bestimmtes Management, das ihnen ermöglicht hat, diese Position einzuhalten, zu erreichen. Und das führt ihn nun zu einem sehr reichhaltigen Bild der Niederlassungen der Genuesen in der damaligen Welt, nicht nur in der europäischen, sondern es reicht dann bereits in die neue Welt hinüber. Er beginnt mit dem östlichen Mittelmeer, maghrebinische Seite, also Nordafrika, westliches Mittelmeer, insbesondere auch Sizilien, Neapel, Rom, Bologna, Toskana, Mailand, Frankreich, Lyon bis Paris, die Niederlande und mit einigen, also Beispiel auch in Deutschland und insbesondere auch der berühmteste Vertreter der Genuesen in England, Pallavicino, und natürlich also mit besonderem Schwergewicht auf der Tätigkeit der Genuesen auf der Iberischen Halbinsel. Und zwar nicht nur in Spanien und Portugal, sondern dann mit den Ausstrahlungen nach Madeira, Kanarien, nach der Neuen Welt, Neuspanien bis nach Chile, Santiago de Chile ha mencionado. Und noch einmal zurück, der Blick die Solidarität innerhalb dieser Gruppe durch vielfältige Korrespondenz, vielfältige Familienverbindungen, die Tatsache, dass jeder dieser Mitglieder einen guten Teil seines Lebens im Ausland verbracht hat, und die hochinteressanten Anlagen geben nun Beispiele, in welcher Weise die einige der Repräsentanten dieser Familien, in welcher Weise sie durch Korrespondenz mit ihren Angehörigen, sei es draußen, sei es in Genua, in Verbindung stand, und das ist tatsächlich, gibt ein überraschendes Bild der Intensität und der Aktivität dieser genuesischen Bankiers. Es ist nur wirklich die Frage, Sie sagten, die Genuesen haben, waren dank dieses Korrespondenznetzes allen anderen Bankiers des damaligen Europa überlegen. Und im Großen und Ganzen kann man das wohl sagen, wenn die Fugger und Augsburger und Nürnberger eine Zeit lang eine sehr starke Position hatten, dann hängt dies mit einigen anderen Umständen zusammen, die man in diesem Zusammenhang noch diskutieren wird, Herr Hildebrand und so weiter, nämlich die besonders interessante Konstellation in Mitteleuropa, das Bund-Metall-Geschäft, die Verbindung zwischen den großen Zentren Augsburg und Nürnberg und dem Hause Habsburg insbesondere, was eine ganz besonders günstige Ausgangsposition gab. Darüber können wir noch diskutieren, bitte. Und Osteuropa, wo die Genuesen also weniger stark also vertreten waren. Aber darüber können wir nun diskutieren. Ich glaube, das ist ungefähr eine Zusammenfassung dessen, was Herr Professor Doria gesagt hat, in einem wirklich, also es ist ein ganz neuartiges Bild, das wir bekommen von dieser, vor allem auch die schöne Zusammenfassung der Position, die die Genuesen im damaligen Europa hatten. Dankeschön. Ich habe das von Ihnen gelernt. Ja, also grazie. Jetzt haben wir also Möglichkeit, eine Stunde lang zu diskutieren. Wer sprechen möchte, bitte ganz klar. Über eine Stunde. Ja, bitte. Ich habe eine Frage zu den Korrespondenzen. Ja. Diese Korrespondenzen sind ja Instruments of Decision Making. Ohne Informationen keine Entscheidung. Gibt es in diesen Korrespondenzen Lists of foreign merchant bankers named and with their special credit? It is usual in southern German correspondence, such lists. What is this firm or that firm good for? With a sum, with a fixed sum. That's important for bills of exchange, how many can true, how much can true to this firm, and so on. Is that usual in general? Yes. Yeah. Thank you. Okay. We have all over the 16th century in the southern German correspondence, we have such lists. Beginning with 1519, election of Charles V, there's a list with his supposed entradas. With his supposed entradas, that was very important for the German merchant bankers, financed his election. Could he keep payback? That was a question. And so there are lists coming from Spain and delivered in southern Germany, Baumgartner, in this case, but they were spread all over the leading firms, were spread over, was not very secret, spread over the firms who participated in financing the election, to check up the risk. How much can I lend him? And where are the limits? Yes. And we have all such a list from Anvers and so on, from many ports and cities, Spain, Italy, from Anvers and so on. One could make a sort of a schedario. Yeah. Si potrebbe fare uno schedario di tutti con le informazioni che danno sulla capacità patrimoniale, sulla consistenza patrimoniale dell'azienda, del mercante, sulla sua specializzazione di attività. Budget di cui poteva disporre. Financial capacity? E vorrei das vermögen und die Investition auf was hat der Grundbesitz, hat der Bergbau, hat der Anlagen hier, hat der Kredit da und so weiter. Also die verschiedenen Arten, die verschiedenen Sparten, auf die sich das Vermögen verteilt. Darf ich eine Ergänzung sagen? Ja. Dann sind diese Aussagen aber in den Genueser Korrespondenzen viel präziser als in den Süddeutschen. Denn die Süddeutschen Aussagen und Daten beziehen sich nicht so sehr auf das Vermögen, das ist ja geheim gerne. Wer sagt schon gerne, was er besitzt? Man wusste so in etwa, aber das war sehr ungenau. Ja. Sondern diese Summen beziehen sich auf die Kreditwürdigkeit, auf die Ditter, die Bauern. Ja. Das sind zwei Dinge. Ja. Die hängen zwar miteinander zusammen, ja, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist nicht identisch. Und dann sind also die Aussagen offenbar, wenn ich das recht verstanden habe, in den Genueser Quellen sehr viel präziser und genauer als die Aussagen in den süddeutschen Quellen, die sich meistens auf die Ditter, die Bauern beziehen. Da also gut. Mit dem können wir Wechsel abschließen zwischen Medina de Campo und Antwerpen meinetwegen oder sonst irgendwelchen großen Messen in Höhe bis zu. Mehr wird nicht gesagt. Nicht über den, worauf diese Angaben natürlich beruhen, das steht da nicht drin. Mag auch sein, dass man das Vermögen wusste, da abschätzen konnte, aber nicht schrieb. Aber sie sind dann weniger ausführlich. Das war ganz interessant, weil sie unterschiedliche Quellengrundlage auch, nicht? Sie dice che le lettere genovesi sono più dettagliati che non le lettere tedesche e naturalmente io credo che c'è una differenza tra persona, sì, cioè Paglioni e il Brignoli e il Fieschi scrivono in un altro modo. Certo. Questo sarebbe la tarea di approfondire gli studi in questa materia. Entrare nel merito. E non solo scrivere quantitativamente. Per me esiste un interessante problema. Hans Jakob Fugger aveva la tarea o dava la tarea a un fattore tedesco in Spagna, Jobst Walter teneva la tarea di studiare le capacità, le entrate di tutte le grandi famiglie nobiliari di Spagna. Per molti di questi venivano nel cordeggio di Carlo V a Germania e volevano sapere quanto possono dare, quanto di credito a un Alvarez de Toledo, quante erano le entrate in Spagna. una informazione molto, esiste l'informazione nella biblioteca statale di Monaco, Staatsbibliothek di Monaco, ancora non pubblicato, una lista molto interessante. E forse c'è anche a Genova la possibilità di trovare cose parecchie sui nobili spagnoli. Sui nobili spagnoli. No, ci sono, più che sui nobili spagnoli, ci sono molte informazioni sui regni di Napoli, sui nobili del regno di Napoli, ma essenzialmente sono sui mercati. Sui mercati. Sui mercati. Sempre su questo argomento, perché adesso la curiosità aumenta. Dall'analisi dell'amico Doria si vede anche uno spostamento di baricentro tra l'attività mercantile e l'attività finanziaria. Noi ricordiamo un po' il tipo di informazione che i mercanti pre-quattrocenteschi avevano, che erano onnicomprensive per certi versi, andavano dalla popolazione, dagli usi, eccetera, alle pesti, alle pestilenze che serpeggiavano, alla capacità dei porti. Ci risulta un mutamento di modello informativo nel passaggio da questo tipo, visto che i genovesi continuano ad essere anche mercanti, però è soltanto uno spostamento degli interessi maggiori, una differenziazione del modello, diversificazione del modello delle informazioni dalla prima fase in cui il mercante prevale a quella in cui prevale il banchiere. In linea di massima sì. Teniamo presente che, almeno per sempre sui pochi campioni di cui si riescono a consultare, perché le corrispondenze non sono molte, i copialettere, quelle accessibili negli archivi. I genovesi, fino alla fine del Cinquecento, in linea di massima questi grandi ricchi erano anche dei mercanti di merci, non solo di denaro. È nel Seicento che cominciano. L'impoverimento della corrispondenza, l'impoverimento quantitativo, ma soprattutto lo scadimento del livello di interesse, quindi la diminuzione della quantità di informazioni contenuta in ciascuna lettera, e poi si vede le lettere che diventano anche più corte, è quando i genovesi non tanto cambiano da mercanti a finanzieri di asientos, cioè finanzieri di prestiti a breve, che erano molto basati sul gioco del cambio e quindi bisognava seguire l'operazione minuto per minuto. A finanza. Quando diventano i possessori, per tutta una serie di cose, diventano i possessori di titoli di rendita e commerciano anche questi titoli di rendita, ma con dei ritmi più blandi, con dei tempi più lunghi, e allora si impoverisce l'attività economica, si impoverisce l'epistolare, lo scambio di informazioni, diventa meno necessario. Ora, i Durazzo sono abbastanza interessanti perché, pur essendo in un periodo successivo al 1630, quindi alla famosa bancarotta del 1627, sono ancora della gente che maneggia il denaro a breve e quindi sono interessanti, però costituiscono un'eccezione. Mentre viceversa il tipo di epistolari che c'è, quelli del Cinquecento, che sono qui ricordati, specialmente i primi quattro, i due Brignole, Teramo e Antonio, Fornari e Di Nepo, questi sono ancora, io credo, da confronti fatti tra i libri di Corti, di questi personaggi con quegli altri che sono molto più ricchi a Genova, sono abbastanza simili, rappresentativi del milieu di questi imprenditori aristocratici. Eine Informationsfrage, wurden diese Nachrichten ausgetauscht oder ging das nicht nur wie bei uns in Deutschland immer streng geheim an die gleiche Firma? Sie hanno dato informazioni, queste informazioni a altri membri del gruppo del questo attento. Io quando dicevo una frase che può essere male espressa e quindi male interpretata, dicevo la superiorità dei genovesi e per questo strumento informativo. Certo, c'erano dei banchieri e nella Germania meridionale e in altre parti, la penisola iberica, nelle Fiandre, che erano assolutamente uguali se non superiori a questi qui, presi singolarmente. La forza del sistema informativo genovese, secondo me, è proprio questo gruppo abbastanza largo, non larghissimo, ma abbastanza, e diffuso, che se lo scambia con una mutua solidarietà, per cui è frequentissimo trovare lettere che per esempio un genovese di Genova scrive a un genovese di un'altra parte del mondo, che magari contiene un quarto solo della lettera, si parla dell'affare, della contrattazione, e tre quarti della lettera sono informazioni generali che non hanno magari nessuna attinenza col grano che io le vendo, ma le danno delle informazioni sull'olio delle Puglie piuttosto che sull'arrivo dell'argento dall'America. E la stessa parte informativa generale lei la trova ripetuta in 4, 5, 6 lettere, una dopo l'altra, delle stesse giornate, che quel genovese scriveva a diverse persone, ma che praticamente è come se avesse fatto la fotocopia, il ciclostile, per questa parte informativa, che era il riassunto, quando dicevo, il riassunto delle informazioni che lui a sua volta riceveva da fuori. Quindi secondo me la forza non deriva dalle singole individualità, dal sistema informativo della singola impresa, ma del gruppo, della corporation. Anche? Commercio mit Connubium. Also es war, man hat der ganzen Nation, nicht? Die Genovesen waren eine Nation, so wie die Florentiner, Lucchesen und wie die Sienesen. Nicht? Sie haben sich als Nation gefühlt und haben, weil sie vielfältig miteinander verwandt waren, Familienstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten wird es auch gegeben haben, das waren die Grenzen. Aber soweit das nicht hereingespielt hat, hat man dem und dem das mitgeteilt. Das hängt wahrscheinlich vielfach damit zusammen, dass der Haciendo, ein großer Haciendo von 500.000 Dukaten, wurde vielfach nicht von dem Mann allein gegeben, sondern vier, fünf Konsortium. Leute haben mit und Consorzio. Questo è il grande problema. Il Consorzio ha naturalmente ha collaborato. Yeah. Questo si basava sull'informazione generale. E spesso il consorzio effettivo è più largo ancora del consorzio che appare nei nomi. Sì, sì. Es ist also tatsächlich die Gruppe, die zusammengespielt hat, ist noch größer als das, was offen erscheint. A Venezia non succedeva qualcosa di simile nei rapporti fra la Serenissima, cioè Venezia, e tutto, diciamo, il dominio delle mani? Lo scambio continuo di notizie. Ma in che epoca? Quando della fine del Cinquecento e inizio del Seicento. A lei non consta, per esempio, che ci sia. Ma io credo che sistemi informativi... Perché non posso fare dei confronti con altri paesi. No, ma certo c'erano dei sistemi informativi analoghi come da tutte le parti. Sì, e che questo, secondo me, ma posso essere smentito, era particolarmente efficiente per questo tipo di coesione del gruppo e per questa diffusione... diffusione sia pure non nella Ost Europa, ma nel mondo latino, perché la corrispondenza con Levante, Venezia e tutto il suo dominio nel Levante, dava luogo a avevamo elementi dispersi, così forse. Ma forse a Venezia era più statale. Era più statale. Questa è tutta privata. Comunque un confronto. Questo è secondo me con Venezia. Ecco, questo è il fatto. Parlare di superiorità, diciamo, se in un senso, diciamo, relativo, perché mancano le ricerche, mi sembra, sino ad oggi. Questa materia, su questa forma di questo legame, perché anche per i Fugger, per esempio, sì, c'era un nutrita corrispondente particolare, sì, anche di piccoli centri come il Bolzano, dove avevano un fattore. Sì. Ma certamente il ruolo dello Stato a Venezia era più forte che il ruolo dello Stato della Repubblica a Genova. Questo era sotto l'aspetto politico, sì, ma come la gruppo dei professionisti mercantile esisteva già una propria distinta organizzazione. E anche nel campo delle comunicazioni, io naturalmente non ho fatto nessuna ricerca al riguardo, quindi chiedo... Però le colonie veneziane, le nazioni veneziane prima della guerra del 30, era per esempio tutta l'area appunto Anversa, Londra, Francia, Spagna, le colonie veneziane in quel periodo, in questo, cioè nel 500, erano molto meno presenti e molto meno attive di quelle genovesi. Beh, ecco, questo adesso per vedere, se poi questo il criterio, diciamo l'esigenza di essere a contatto in rapporto continuo, a parte la quantità, ma diciamo la necessità, questo è nel 500 quello di cui parlava nell'introduzione di Maddalena. Comunque lei ha fatto una ricerca, precisa, ecco, È una lastima che giustamente Venezia ancora non era tanto nel centro della ricerca come Genova, è un grande problema. Genova che aveva questa dispersione. Forse sono le difficoltà di far studi a Venezia, all'archivio di Stato e da Vaccino. La vasca febbrana. Adesso io parlo della. Questo per approfondire la questione che ha presentato il dottore Chiesa. La lettera di Simon Ruiz a Versa, non esistono nunca la parola italiani, sino genovesi, per parlare per solidarietà, per la solidarietà dei genovesi, distinguono tra le genovesi e le altre genovesi, chi fa la forza, chi mettono la lo che vogliono nel mercato. Io parlerò su questo problema, ma credo che è molto interessante. Ma questo che il professore Doria ha detto, io sono completamente d'accordo, io insistirò sull'aspetto finanziario, ma ha due questioni, una complementaria, che ha parlato delle intervenzioni dei mercati genovesi nel miniere spagnoli, nel miniere anche del ferro in il nord della Spagna. Io sono completamente sorpreso, io non ho trovato nessuno in il nord della Spagna, ma trafficavano con il ferro di Biscaglia, l'Inghilterra, la Francia, in comincio del 500. E ancora, io ho il nome, non lo ricordo in questo momento, dei imprenditori genovesi che hanno fatto nuove invenzioni idrauliche in Biscaglia, e ha un documento, si dice, a 568, che hanno messo per la prima volta una rotta alla genovessa in una ferraria. Non conoscevo assolutamente. È interessante perché non si trova mercanti genovesi a Bilbao, ma sono state là. Se una piccola questione, ancora sulla questione della questione della importanza dei mercanti genovesi, io sono completamente d'accordo, ma la questione l'ha posato, qual è la ragione di questa importanza sulla Repubblica del Danaro. Io credo il fatto se che sono molti e situati in tutte le piazze finanziarie, i mercanti, ma io credo che questo non basta, ancora un altro livello, il livello dell'imprenditore. Gli spagnoli lo riconoscono e dice che i genovesi sapono fare le finanze, sapono fare guadagnare col suo denaro. Noi non sappiamo, queste espressioni hanno alla fine del 600, alla fine del 500, come il convincimento del 600, e riconosce che lei non spagnole non può abbastare per fare queste ricorse, questo movimento della fare e guadagnare della pari. Io riparlerò il prossimo. Sì, ma siccome io non sono razzista e non credo che ci sia, ma credo sì, ma non capisco, non credo che ci sia un gruppo più intelligente di un altro, però ci sono dei gruppi che hanno più successo di un altro. Perché hanno più successo? Perché hanno degli strumenti che altri non hanno e quindi hanno. Allora io, è quello che mi sono posto, i genovesi avevano più soldi degli altri, di alcuni altri sì, ma di alcuni altri no. Avevano alle spalle una forza politica che sosteneva la loro attività economica? No. siccome non erano più intelligenti degli altri, avevano questa conoscenza che deriva dalla diffusione. Io ho letto in anteprima, credo, un lavoro che deve ancora essere pubblicato di Antonia Borlandi su 400 genovese. Mi sembra che sia proprio lì un certo problema di crisi dell'economia genovese del 400, cioè spinge i genovesi, che avevano già una certa capacità personale, fuori. È un po' la forza degli ebrei, certo, li spinge fuori, li fa insediare, radicare in questa realtà così vasta, gliela fa conoscere. Diventa con questo tipo di solidarietà di categoria, di casta, che c'è una conoscenza, un patrimonio comune di conoscenza, ecco perché dico, era questo lo strumento che li rendeva più efficienti, magari in quel momento del gruppo spagnolo, perché sapevano di più, e anche oggi il sapere nel mondo degli affari è il 90% dello strumento del successo, del metodo del successo. Lanz ich zuerst und dann Sie, nicht? Vorrei sottolineare la differenza tra Genova e Venezia dal punto di vista dell'informazione, perché se ho ben capito l'intervenzione di professore Mandic, a Venezia non c'era molte informazioni tra uomini d'affari, ma ho visto nella corrispondenza degli ambasciatori, dispacci, non queste relazioni e celeberrime relazioni, ma nei dispacci da Germania o da Francia, qui era l'informazione più generale, ma economica, probabilmente per tutta la comunità degli uomini d'affari della patria di Venezia. Ma credo che la differenza con Genova, i dispacci, gli ambasciatori, i residenti e consoli erano diretti praticamente al Senato, sì, e quindi io non so in quale misura queste notizie che affluivano al Consiglio dei Pregati, cioè il Senato, poi si diffondeva. È vero che molti senatori erano anche mercanti, però qualcuno che aveva una notizia preziosa la teneva per sé. Quindi sulle cose veneziane, no, può continuare, no, per favore. Sì. In dem Referat ist mir meist das Wort Mafia gefallen. Ich finde das gefährlich, wenn man schon moderne Begriffe anwendet mit Mafia heute, weiß man ja mehr oder weniger, wie die Mafias zusammengesetzt sind. Aber ich weiß wirklich, fürchte, für das 15. 16. Jahrhundert wissen wir das nicht. Ich frage nun konkret, geht aus diesen Korrespondenzen, da steht ja nur Klappern-Dissi, gehen da auch die Familienzusammenhänge hervor? Vor allem die Posten, die Sie ja genannt haben, die die Genuesen in bestimmten Ländern erringen, der soziale Aufstieg, die Kosten der Finanzverwaltung und so weiter, wie kommen die zustande? Ich finde, bei den Studien der Finanziers immer wieder dasselbe. Die haben endlose Namen von Listen von Namen. Bei Modesto Rioja geht es so weit, dass er sogar nur die Vornamen nennt. sodass man mit dem Namen eigentlich gar nichts anfangen kann. Gascon hat ja mehrfach auf die Notwendigkeit eines Who is Who im 15., 16., 17. Jahrhundert hingewiesen. Nun frage ich, sind diese genealogischen Studien, wir kennen sie aus dem 19. Jahrhundert, aber die sind ja heute methodisch überwunden, sind die da weitergekommen, also auch bei diesen Korrespondenzen, konkret an George Udodia, den ich sehr bewundere, aber ich werfe ihm vor, dass er sehr wenig über sein eigenes Haus gemacht hat. Ich habe zwei Francesco Doria, Söhne von Andrea und Aleramo, die wiederum Söhne von Lazzaro waren. Lazzaro war Bankier in Genua. Es ist mir bisher nicht gelungen, herauszufinden, was für Doria das waren. Sì, la grande difficoltà di sapere esattamente, di conoscere esattamente la genealogia di questa famiglia, di grande famiglia. Sì, io non me ne sono mai occupato, ma ci sono delle ricerche, signor almeno Polani, per Genova. Per Genova. Ma io della... era un bravo che non era bravo. Tu lo fai perché non vuoi essere coinvolto nella parte. Gibt es eine Archivtonia? Sì, c'è e l'ho dato, quello del mio ramo, l'ho dato alla Facoltà di Economia e Commercio di Genova, quindi è pubblico. Alcune persone. Ho scoperto anche dei brutti segreti familiari. Non mi basta. Venga. Sì, signor Bonà. Io avevo un problema. Che è questo? Se ho capito bene, tu fai una connessione tra l'affermazione mondiale sul piano economico dei genovesi e la solidarietà interna, anche politica, di un determinato gruppo mediatico. Ho capito bene? Sì, anche politica, ma soprattutto economica. Ora, e oligarchica, sono loro, sì, sì. Sono questi, sono solo questi. E hai detto anche, ricordando il professore, che questa solidarietà oligarchica si dimostra solidarietà di gruppo e non di azienda nella trasmissione delle notizie anche a coloro che non fanno parte dell'azienda. Va bene? Ora, a me sembra che in questo quadro che tu hai fatto della sofferenza economica e finanziaria dei genovesi nel 500 ricarichi con la carta carbone il quadro della potenza economica e finanziaria dei fiorentini nel 300. Gli ambiti finanza, manifattura, commercio sono gli stessi, manca l'armamento perché i fiorentini ne stanno a fede. I fiorentini sono ugualmente diffusi e ugualmente autorevoli di come saranno i genovesi in due secoli dopo. La nazione fiorentina nei confronti dei terzi ha la stessa compattezza vista dagli fuori. Il modello di diaspora, direi, è lo stesso. È lo stesso il ruolo preponderante come demarrage del legame con Roma, che nel 500 viene poi corretto con le conversioni musulmane o protestanti, perché Roma è diminuita la produzione. Però non esiste l'altra faccia, cioè quella di una compattezza oligarchica, cementata, come sarà cementata quella genovese del 500. Domani, è vero che sul piano economico, all'interno, esiste e funziona questa compattezza. Penso a un testo molto famoso, quello di Giovanni Morelli, inizio del 400, che nelle istruzioni ai figli dice, quando arrivano le lettere, e arrivano le lettere con la scarsella, se nella tua ci sono lettere per altri, prima apri la tua e fai quello che ti dice di fare. Poi consegna le lettere agli altri. Quindi mi chiedo se in questo ciclo stile che viene distribuito agli altri non sia analogo alle notizie delle lettere fiorentine che uno distribuisce perché non le tiene in esclusiva, ma solo esposto, quando lui ha già agito e messo le mani avanti. Per cui la solidarietà d'azienda in fondo non abbia premio anche nel 500 e Genova sulla solidarietà di due. Due cose, divido la risposta in due. Il primo è il discorso della solidarietà di gruppo. Rodolfo Sabelli ha scritto parecchio sui contrasti della nobiltà genovese, alle guerre civili, però poi si è accorto, cioè non però, mentre studiava queste cose si è accorto che per esempio le lotte del 75 tra nobili vecchi e nobili nuovi, a cui qualcuno voleva dare la connotazione che il contrasto politico è anche contrasto economico, perché i nobili vecchi erano legati alla Spagna e i nobili nuovi no, e poi si scopriva che i capi dei nobili nuovi avevano tutti i soldi in Spagna come i nobili vecchi e associati ai nobili vecchi. Quindi una solidarietà era quel discorso che faceva De Maddalena, di questa solidarietà d'affari che supera o affianca le eventuali discordie politiche. Il discorso dell'azienda, dell'impresa, è difficile. Studiando i libri di conti dei genovesi del 500 e dell'inizio del 600, è difficile immaginare l'impresa come si immaginerebbe oggi in uno stato semi-industrializzato come il nostro. Perché cos'è l'impresa? Tu vedi un libro di conti che copre due anni, per esempio, tu vedi che quel signore lì è sia associato in alcune cose con suo zio e con suo fratello, ma è associato in 100 altre cose con 200 altre persone di Genova. La sua impresa si frantuma, se la esamini strutturalmente, si frantuma in 100.000 collegamenti. E questo è generalizzato. Quindi non esiste la mia impresa genovese concorrente con la sua impresa genovese, perché noi siamo collegati tutti qui da 10.000 affari nella nostra vita. Questo il riferimento che facevano loro dei consorzi per gli assientos, ma si facevano i consorzi per tutto, per l'acquisto dello zucchero, per l'acquisto dei cavalli, per l'acquisto ecco, era su. Le galere, quando diciamo, ne parlavamo venendo su con Rodolfo Savelli, che ha visto un fondo che parla parecchio degli assientos di galera alla Spagna, dei genovesi, figurano due o tre nomi degli assentistas di galere, ma poi in realtà ciascuno di questi aveva delle partecipazioni di altri che gli permettevano, e una delle tecniche, sempre del know-how degli esi, era in questo modo di suddividere i rischi, perché quando Trasselli nel suo studio dice che a un certo punto i genovesi dominavano le assicurazioni in Sicilia, perché avevano questa tecnica della suddivisione del rischio. Quindi, secondo me, è difficile ragionare in termini di somma di imprese separate una dalle altre, proprio perché questo gruppo è un po' come, se vuoi, certo capitalismo più moderno, dove la somma degli intrecci è talmente forte che crea un gruppo omogeneo di interessi, non una somma di imprese separate. Ecco, in questo senso. Per tutto il resto, quello che dicevo, che questa è la copia di quello che di Fiorentina fa dal 300, io non ho mai detto che li abbiamo inventati, è che nel 500 lo facevano questi, quella lo facevano prima. No, perché? Se continui il discorso, mi sembra. Era questo appunto, perché nel 500 genovesi, perché prima gli altri e perché dopo gli altri? Perché io volevo andare, cioè a me è piaciuta moltissimo la relazione, non avevo mai avuto un panorama così vasto dell'attività dei genovesi, e anche non solo in senso geografico, ma anche di tutte le attività. È stata una sintesi bellissima, però io non lo so, forse sbaglio, ma mi sembra che sia il posto di considerare la corrispondenza, l'informazione degli strumenti, li considerassimo dei sintomi, forse sarebbe meglio, perché poi dobbiamo inevitabilmente porci il problema. Perché dall'inizio del Cinquecento sono genovesi ad avere questa diffusione di affari che prima magari era più tipica dei fiorentini e degli altri toscani, e perché poi a un determinato momento nel Cinquecento, alla fine del Cinquecento, inizio del Seicento, diciamo al meglio, perdono questa posizione di predominio? Perché evidentemente mi sembra a me che i genovesi sono padroni di questo strumento dell'informazione, tanto nel 400 come nel 500 come dopo. Perciò io preferirei, sbaglio, mi sembra che se lo consideriamo, se questa capacità di diffondere, di manipolare l'informazione, la consideriamo un sintomo. Per esempio io mi ricordo delle pagine di Gino Rizzatto in cui diceva, lui metteva un po' d'enfasi a livello totalmente ipotetico sulle attività dei genovesi nel 500, dicendo sì è vero, sono molto apparenti, fanno questi affari internazionali, ma forse non è che a Venezia ci fosse meno denaro, è forse che a Venezia c'era meno necessità di andare fuori dalla Repubblica Veneta per impiegare il denaro. I genovesi devono cercare, mi sembra, le loro opportunità fuori dalla Liguria. E allora naturalmente esiste poi un bisogno di avere una corrispondenza vasta, perché mi sembra che il cartello veneziano offre molte più opportunità. Appunto dicevo questo, al momento di pormi il problema, perché a un determinato momento non trovo più i genovesi in campo internazionale con un'attività così intensa, se considero l'informazione uno strumento, devo dirmi, beh, allora perdono il dominio dell'informazione, non credo. Invece se la considero un sintomo, allora possono libero di cercare altre cause. Ma non è sintomo o strumento, è anche uno strumento. Lo so, ma ve lo dico. Secondo me, perché i genovesi nel 400 si sono diffusi e quindi hanno acquisito quelle conoscenze, quel know-how che gli ha permesso di. Perché poi non li trovo più? Perché secondo me, perché si sono arricchiti, arricchendosi uno in genere, ha meno voglia di lavorare, e almeno voglia di faticare, stare in giro era abbastanza faticoso. Questi ritornano, è un po' il discorso della quarta generazione di Thomas Mann, prima, seconda, terza, la quarta, ecco, questi infatti ce n'è meno in giro alla metà del 400, del 600, e ce n'è, e fioriscono sempre di più le ville e i palazzi a Genova, tornano lì, vivono di rendita e quindi ma con questo non si può non considerare l'informazione uno strumento di attività economica. Io mi scuso, ma io sposterei la mia domanda, lasciando parlare prima Nathan, perché mi pare che volesse accennare al problema di Venezia anche. No, era una cosa semplicemente una circolazione delle cose intervenute, basta dare un'occhiata ai diari del 1500 per vedere come ogni cosa che arrivava, compreso qualche volta anche le lettere indirizzate al Consiglio Segreto dei Dieci, giravano nel giro di pochissimo tempo. Quindi il fatto di informazione riservata non lo vedrei come un problema. Sì, non volevo poi parlare tanto di questo, ma giustamente mai c'è tutto il campo mercantile in senso lato proveniente anche dai mezzi di pattugliamento veneziano in tempo di pace, perché non è soltanto una flotta di guerra, c'è sempre una ventina di vascelli presenti nell'Adriatico o nel basso Egeo e Ionio, eppure questi ricevono e mandano informazioni. Però perderei probabilmente di più, almeno nella fine del 400, la funzione di motore e colone, probabilmente i due occhi dove ci sono Castellanima, che mi sembra mandino a vedere le lettere riprodotte, in diario di San Muro, informazioni di grandissima utilità commerciale. Comunque questa è una cosa a parte. Io volevo riallacciarmi a un problema proposto nell'introduzione. Un poco più lento, per favore. Del rapporto tra Stato e sovrastato. Hai parlato di mercanti presenti sulla piazza londinese che mandano informazioni utili innanzitutto in senso politico all'impresa della Grande Armada che dopo farà quello che farà contro l'Inghilterra di Elisabetta. E volevo sollevare il problema perché anche così quel che si sa di Venezia, ci sono casi specifici, lo stesso oggi Andrea Gritti è a Costantinopoli come mercante del grano subito prima della guerra turca che chiude il 400, manda informazioni politiche e fa anche molte altre cose, lascia un bastardo che poi diventa governatore turco proprio quando lui è doge, ma questo tra parentesi. Quale profilo appunto ha nel complesso della corrispondenza mercantile questo tipo di informazione, questa funzione di informazione politica? Perché qui è un punto di incontro tra le lealtà della Repubblica del denaro e quelle dell'organizzazione statale, della comunità politica a cui appartengono i mercanti. Si sa che in senso lato le comunicazioni che tu usi contengono dati politici sia strutturali che congiunturali, perché fa parte del quadro in cui opera un mercante sapere il più possibile sulle cose che possono incidere sulla attività, sui suoi guadagni. Ma questa finalità più specifica, di spionaggio quasi, quanto è presente? In queste genovesi? Sì, e anche in genere. In genere, qui per genovese vuol dire piuttosto poco, secondo me, perché Genova non era in grado di svolgere una politica autonoma, quindi le informazioni politiche con finalità politiche scarse, le informazioni politiche per trarre da quella particolare situazione politica dei vantaggi economici, quello enorme, perché specialmente per tutto quello che era collegamento dei finanziamenti alle guerre, per forza c'era tutto questo aspetto, ma non con finalità politica, proprio perché non era in grado la Repubblica di Genova di svolgere un'autonoma, in questo periodo, una politica autonoma. Cioè, gli elementi del successo genovese nel corso del Cinquecento sono diversi, alcuni sicuramente, come rilevava appunto Antonio Borlani, si ritrovano in altre circostanze, in altri successi come quelli fiorentini. Il problema non è tanto quello se riescono, avendo solo corrispondenze genovesi, noi non sappiamo se anche in altre situazioni non sia possibile un giorno, che gli studi conoscono la decisione, ad esempio per Venezia, con un gruppo abbastanza sostanzioso di formazioni mercantili. Quanto il fatto che, credo che qui abbia sottolineato Giorgio Dore, venissero integrati in un sistema che poi ha avuto il successo che ha avuto. Cioè, possibile anche che domani scopriamo che una Venezia avesse, i mercanti di Venezia avessero, siano fossero riusciti a realizzare un sistema di formazione molto capillare. Sta di fatto che però sul piano della congiuntura economica cinquecentesca la strategia vincente è stata quella genovese. È chiaro che si integra evidentemente in un quadro di riferimento in cui la compattezza e la solidarietà oligarchica giocano un ruolo fondamentale, il Casato, gli alberghi, ma il profilo ideologico è certamente lo status nobiliare a Genova non esclude l'esercizio di determinate attività economiche, come Cornelio Spinola sottolineava in appunto all'inizio del Seicento, in altre situazioni italiane o straniere. C'è evidentemente il sistema di informazioni, ma c'è anche l'occupazione del potere. Qui nessuno ha arrivato quelle notizie che dava Giorgio Doria, importantissime, perché accanto al sistema di informazioni c'è, che è quello che un po' ha fatto rilevare Giorgio Doria, c'è un sistema sotterraneo di occupazione tanto al centro del potere, il Consejo de Stato di Azienda de Cruzada in alcune circostanze hanno bene dei componenti, ci sono dei genovesi naturalizzati anche spagnoli, credo il professor Vasquez de Prada confermerà, ma non è tanto e solo il centro, sono quei sistemi di occupazione capillare del potere a livello periferico. E non è un caso che i genovesi selezionano tutta una serie di uffici, però non è mica un caso che vanno a occupare determinati uffici erogati, quando quelli per esempio delle dogane, da dove si controlla il traffico delle merci, il secondo ufficio periferico che a Roma, in Sicilia e a Napoli vanno ad occupare, sono le tesorerie dove si manovra il movimento di cassa, che è una cosa, intanto è un osservatorio privilegiato da cui vedere la larghezza e la strettezza del circolante sul territorio. Secondaria cosa, in qualunque libro contabile di tesoreria che voi andate a vedere per l'età moderna, vedete che i titolari di questi uffici sono sempre debitori rispetto alla cassa centrale, cioè c'è almeno un anno e mezzo, due anni, molte volte, con cui rimetto il denaro esatto nelle province, sul territorio provinciale, viene rimesso con ritardo. Perché? Perché quel denaro viene fatto girare con prestiti a breve termine, cioè loro lucravano interessi con denaro che non era il loro. Questo è fondamentale, ma per tutte le età moderne. E i genovesi sono in grado, nella provincia di Napoli, la seconda metà del Cinquecento, tra la metà e due terzi delle 12 tesorerie provinciali del Reggio, cioè le percettorie, sono occupati da genovesi, non è mica un caso. E naturalmente c'è poi anche il controllo dei capitali. Qui ovviamente chiederei a Giorgio Doria delle informazioni supplementari su questo problema fondamentale. Quanta parte di questo capitale manovrato da genovesi è capitale di rischio dei casati e quanta parte invece è, come io credo, e qui secondo me la mia ipotesi è che sia preponderante questa seconda parte dei capitali, cioè capitali raccolti drenando i risparmi delle varie province italiane o dell'impero. Non è un caso che i genovesi, insomma, abbiamo le corrispondenze cinquecentesche, mandavano, quando arrivavano a Siviglia le navi dalle Americhe, andavano testimonianze cinquecentesche che all'entrata del porto andavano vendendo barche, si avvicinavano alle navi e vendevano mazzette di muros, dei titoli del debito pubblico, a quelli che venivano con l'argento, con le rimesse preziose. Ecco, ora tutto questo, e concludo, è veramente come, ecco, io leggendo uno studio non tanto recente di José Gentil da Silva, lui contrappone due modelli. Questo genovese, che a suo avviso sarebbe sostanzialmente speculativo, e lo chiama arcaico, credo di non sbagliare, ricordo bene questo aggettivo, demonopolistico, arcaico e destinato a perdere. A perdere rispetto al genovese, ai portoghesi, che a partire dal 1626-27 invece avrebbero un modello più equilibrato, non esclusivamente speculativo, ma fondato su un equilibrio tra commercio e finanza. Ma in realtà poi, se uno va a vedere, non è mica vero questo, perché i portoghesi ripetono pari pari il modello genovese nel loro piccolo, tra il 27 e il 50, forse che non occupano tutti i porti, gli uffici doganali dei porti dell'Atlantico. Se uno li va a vedere, sono in gran parte lì, non solo, ma anche loro, attraverso questa diaspora che si è sviluppata tra l'ultimo decennio del Cinquecento e i primi due decenni del Seicento per tutta Europa, si piazzano in alcuni punti centrali, tanto di piazze mercantili che forse come occupazione di potere politico è minore, questo sì, però il modello è ancora una volta quello genovese. Quindi in questo senso non credo che si possa contrapporre questi due modelli. Ma ancora di più c'è una continuità, voglio dire, la gestione e la razionalizzazione del potere economico seleziona e filtra attraverso le esperienze storiche elementi di modelli diversi da quello fiorentino, dico, del 300 a quello genovese del 500. Tutto. Sì, grazie, signor Savelli. Sì, volevo dire solo due cose, magari anche rispondere parzialmente a Netton sulla questione delle informazioni politiche. Io non ho molta esperienza di carteggi, ma di quelli che ho visto, proprio a lettere in partenza, per esempio, sono avarissimi di notizie politiche. Anche su quello che succede in città. Quando c'è la guerra civile, c'è l'insurrezione, la famosa guerra che ho studiato, uno dei capi, dei capi parte, dei capi faziosi, dico, non manda praticamente informazioni. Cioè, dice semplicemente stiamo riformando lo Stato, punto. E poi passa a trattare sempre degli affari, e che erano gli affari, come ricordava la Gloria prima, che facevano con la controparte. Cioè, i capi fazione poi avevano gli affari in comune sul mercato spagnolo, sul mercato europeo. Ora, un'altra questione. Il conflitto, secondo me, c'è stato, ed è stato vinto al taglio dei carichi, nei confronti di gruppi manifatturieri, cioè, che è vero che l'industria stessa è mia. Però, se noi guardiamo, l'ho parlato due anni fa qua, se guardiamo la composizione dei setaioli, che è il gruppo manifatturiero più importante, è cambiato. Cioè, la nobiltà ritira in parte, probabilmente, i suoi uomini, se non i capi. Una cosa che io volevo aggiungere, secondo me può essere anche un elemento di dettaglio molto secondario, però ha un suo, credo che abbia una sua funzione, è sulla coscienza di questi mezzi, cioè un aspetto soggettivo, non solo le informazioni. Ma io credo che questi mercanti abbiano un notevole pelo sullo stomaco e si diano anche dei convincimenti e creino un sistema in cui giustificano i loro guadagni. Cioè, nel dibattito cinquecentesco sulle usure e sui campi, che ripete quello trecentesco fiorentino, e lì ci sono poi dei discorsi. Intorno a alcune date cruciali, 53-54, fine 500, si svolge a Genova una discussione sulla ricetta delle attività economiche. E non solo vi è una posizione, io direi, particolarmente moderna da parte di alcuni in cui giustificano le attività creditizie dicendo ma qui non c'è problema di mutuo e di condanna della Chiesa, ma ancora una volta entra in funzione come meccanismo di solidarietà, per cui è la Repubblica che scrive ai cardinali genovesi attivandoli perché promuovono determinate posizioni all'interno delle congregazioni. È la Repubblica, ora arcivescovo, che manda teologi a Roma per giustificare queste posizioni, che il professor Mandici ha anche tanti anni fa illustrato, e si pubblicano opere in difesa di queste attività, che invece in altre parti venivano ancora considerate come attività condannate o parzialmente riprovate. Poi certo qualcuno si fa, come Antonio Brignole, diventa domenicano, oppure qualcuno a un certo punto però nel complesso c'è un quadro, io credo, di un'elaborazione di una coscienza collettiva per cui bisogna guadagnare e guadagnare tanto, poi semmai in fase testamentaria si preoccupa delle restituzioni. Ich möchte noch einmal zurückkehren zu der Frage, die Professor Mandic aufgeworfen hat. Ich glaube, dass dieser Vergleich bei allen Schwierigkeiten zwischen Venedig und Genua doch sehr fruchtbar ist. Ich muss mich entschuldigen jetzt bei den deutschen Kollegen, wenn ich vielleicht, um mich da in diese Diskussion einzumischen, italienisch fortfahre. Ich kann es ja dann sagen. A me sembra che la grande, che è interessantissima la grande differenza con tutte le similitudini fra Venezia e Genova, con tutta la loro rivalità per tutto il Medioevo, sia interessante proprio che perché i genovesi in Genova queste enorme attività, certamente anch'io non sono razzista, ha certamente ragione, i genovesi non erano più intelligenti dei veneziani o viceversa. Però a me pare che qui ci sia la questione del compenso. In Venezia è riuscita a costruirsi un grande impero mediterraneo con tanti posti statali, eccetera. Io ricordo soltanto dalla mia storia di famiglia che una delle famiglie che lei ha nominato, cioè i Giustiniani di, non i Giustiniani di Venezia, ma i Giustiniani di Genova, avevano per un po' di tempo, vantavano il titolo perfino di re di Chio. No? Però questo era effimero, passeggero. I genovesi non avevano mai così, forse anche una parte del Mediterraneo chiuso per sé come i veneziani l'avevano la parte orientale del Mediterraneo, mentre i genovesi, lì c'era la Francia, c'era l'Aragona, c'era la Spagna, c'era Napoli, insomma non erano riusciti di costruire. E allora proprio il paragone mi sembra molto illuminante con gli ebrei, perché loro non hanno lì la organizzazione statale, allora piantano queste colonie familiari, che dato che non sono sostenuti da uno Stato, hanno anche più solidarietà familiare. Troviamo la famosa solidarietà degli ebrei tante volte, perché non c'è una potenza che li protegga. Cioè, io credo che questo sia veramente una delle ragioni, la loro unica arma è appunto la informazione. Loro possono avere la informazione e poi sono legati da questo sentimento di solidarietà del gruppo che non ha funzioni statali, perché tutti questi, appunto, a parte i giustiniani, non avevano mai una funzione statale. Credo che questo sia una delle ragioni. Kann ich das nur ganz kurz sagen, ich glaube, der Unterschied zwischen Venedig und ist eben der, dass in Venedig dass Venedig ein Imperium aufbauen konnte im östlichen Mittelmeer, die Genuesen nicht. Die Genuesen, da war Frankreich, da war Spanien, da waren Neapel, schließlich im westlichen Mittelmeer waren auch nicht so viele Inseln, da konnte man nicht ein solches Imperium aufbauen, wie es die Venezianer im östlichen Mittelmeer gemacht haben, wo dann viele ihrer Energien eben durch die Bewahrung dieser staatlichen Position neben ihrer Händlertätigkeit absorbiert wurden. Die Genuesen hatten das nicht, sie brauchten eine Kompensation, und diese Kompensation war eben, dass sie dort, wo sie nicht staatlich sich festsetzen konnten und noch in vielen anderen Gegenden, dann eben diese Familienkolonien gründeten, die natürlich dann von einer ganz besonderen Solidarität zusammengehalten waren. Und hier ist das Beispiel des Vergleichs mit den Juden, das ja auch anche in Proverbio si sempre di un genovese e due volte un ebreo, eccetera. Quattro volte uno scozzese. Sì, poi c'è il levantino, insomma, questi scherzi, ma con i genovesi ha cominciato, i genovesi dann eben ihre einzige Waffe dann eben diese Information war, und das scheint mir ungeheuer eindrucksvoll zu sein. Darf ich noch kurz vorher, oder? Also, und dann Professor Pickel. Also, ich wollte eben hier anschließend sagen, dieser Informationsvorsprung der Genuesen, speziell im westlichen Mittelmeer und in Spanien, hat ihnen dann im zweiten Drittel des 17. Jahrhunderts in Konkurrenz zu den Venezianern und den Nürnbergern den Quecksilberabwalt für 30 Jahre eingetragen. Und das war zweifellos für das Haus Bardi eine so enorme Gewinnmöglichkeit, dass die Vermutung, der Palazzo Reale sei zum erheblichen Teil aus den Gewinnen aus dem Quecksilberabwalt von Idria finanziert worden, wahrscheinlich zurechtgestellt. Insomma, si affollano alla mente moltissime idee dopo quello che qui è stato detto. Le tematiche trattate sono state molte, le questioni poste sul tappeto sono state molte, quindi urgerebbero alle labbra molte domande da fare a tutti, ma adesso mi riduco a poche cose. Forse perché un germe ugonotto da un dal De Magdalena andato a Parigi mi è sceso per i pochi nobili lombi fino ad oggi, mi permetto di fare un'osservazione un po' ugonotta a quello che tu hai detto. Io sono perfettamente d'accordo nel dire che a quest'epoca, voglio dire nella prima metà dei primi decenni del 600, i genovesi riescono a creare a proprio favore probabilmente un gap informatico, a proprio favore rispetto alle altre comunità nazionali, un gap informatico. Ma allora io sono portato forse a andare oltre, e trascinando sul piano della discussione anche Antonia Borlandi, mi chiedo: se è vero che i genovesi si creano questo stato privilegiante dominante e privilegiato sul piano delle informazioni, il modello genovese può essere, certo non solo per questo, raffrontato a quello fiorentino? Non è forse proprio l'epoca storica, la congiuntura storica ed economica tutta affatto differente, che induce a cercare degli altri gap, a creare degli altri gap? In sostanza mi pare che la storiografia cipolliana o post-cipolliana abbia ormai pacificamente convenuto su un fatto: la crisi in cui cade il Mediterraneo, l'Italia e il Mediterraneo in generale, è rappresentato dalla perdita di un gap tecnologico a livello manifatturiero soprattutto a favore delle aree nord-occidentali europee. Ma è allora qui la saggezza degli operatori mediterranei di trasformare in un gap commerciale e speculativo l'eroso gap sul piano manifatturiero, produttivo? Questo potrebbe essere un tema su cui un momento meditare. E allora in questo caso forse il modello genovese, proprio per questo aspetto, non coincide esattamente col modello fiorentino. Cioè, è chiaro, la stimolazione, l'innesco a far sì che Genova appaia alla ribalta, là dove prima la ribalta erano gli altri, due secoli prima, è generato da condizioni storiche diverse. E quindi una analogia modellistica forse non si può del tutto instaurare, perché si sono modificate le componenti interne e le forze esterne nel determinare questa apparente analogia. Ma per venire in modo specifico a proprio quello che diceva Giorgio Doria, io qui mi accorgo, anche alla luce soltanto dei dati numerici, statistici, mi accorgo che in sostanza la diaspora genovese costituisce, grosso modo, sul piano degli scambi di informazioni, un 50% delle corrispondenze. Per cui 54 su 72, 30 su 87, 37 su 73. Allora mi ripongo ancora il problema: a questi genovesi allora riuscivano ad avere informazioni non soltanto dai loro concittadini, ma anche da altri? E questo mi viene estremamente confermato da alcune ricerche che i miei allievi, assistenti, colleghi ormai hanno in corso alla Bocconi, su questo fondo immenso che noi di lettere commerciali, che noi abbiamo alla Bocconi, 575.000 lettere commerciali. Non è uno scherzo. Tra l'altro, 575.000 lettere con i relativi andate e ritorno, con le relative risposte. Ora, da sondaggi che sono in corso, non posso dare i dati statistici, non li ho in mente, però posso dire questo: che queste compagnie che operano dall'inizio del Seicento, attenzione quindi all'epoca, dall'inizio del Seicento fino all'inizio del Settecento, che ci hanno lasciato queste reliquie, queste 575.000 reliquie epistolari, ci pongono in grado di stabilire una cosa: certamente sono soprattutto case fiorentine, e tra l'altro case fiorentine che operano a Venezia. Attenzione, case fiorentine che hanno il loro centro principale d'affari a Venezia tra il 1610 e il 1710, che sviluppano un'attività commerciale eccezionale, oltre che un'attività speculativa sui cambi, va bene, tocca il culmine verso il 1615, poi si abbassa, la storia delle fiere dei cambi, insomma, mi riflessa molto bene. Ora, tutte queste corrispondenze, in realtà, da parte di questi fiorentini, cioè, sono fatte anche con degli associati fiorentini che si sono trasferiti a Cracovia, a Amburgo, a Londra e via dicendo. Ma il grosso della corrispondenza e il grosso delle informazioni, tra virgolette, che si ricavano, sono dalle lettere che vengono a questi fiorentini operanti, soprattutto, tra l'altro importante questo, da Venezia, da altri, da gente locale. o addirittura da genovesi, da veneziani, da milanesi. Ecco perché anche vedendo questa rete di informazioni mi sono detto, ma al di là quella che diceva Merton, una lealtà nei confronti della propria nazione, c'è anche una lealtà nei confronti forse di un sovrastato, di un quid che tutti permea in quel momento. Cioè le informazioni sono scambiate, c'è poi chi li usa meglio e chi li usa peggio. E qui non è questione, no, io non faccio il razzista, anche io non dico che ci sono i più intelligenti, ma sono le collocazioni localmente politiche, localmente amministrative, localmente congiunturali di mercato che possono questo favorire. È chiaro quello che ti dicevo nella chiacchierata precedente. Certo, gli interessi, il disegno di primeggiare comunque c'è, questo è evidente, al di là di un'ideologia, e questo è chiaro, no? Mica uno fa tutto questo per perderci, solo i pazzi ci perdono, ma io, ma quelli fino alla legge Basaglia erano tutti fuori, e allora mi diceva forse, erano ancora prima della legge Basaglia. Quindi dico, le persone normali operavano secondo una razio che dipendeva anche dalle circostanze, dal collocamento geostorico che si trovava. Questo indipendentemente, ripeto, dal fatto però che tutta una rete, una trafila sopra le frontiere o le grenze veniva stabilita. Ora io, e qui gli stessi dati del resto genovesi mi inducono quasi a... Ultima cosa, e questa mi è stata suggerita un'osservazione che ho captato immediatamente di Sanelli. Bellissima quell'osservazione sua. Proprio tra 5 e 600 c'è questo sforzo di giustificare l'interesse, l'usura, addirittura il profitto. Ecco, io mi pongo, e questo qui potrebbe essere l'allungamento della traiettoria di questi lavori che noi abbiamo cominciato 2 anni fa, che vanno avanti oggi, che potrebbero essere portati avanti ancora successivamente. Proprio quello che diceva Sapelli mi fa pensare che in questo secolo si analizzano a fondo le anime del profitto in un certo senso per giustificare, attenzione qui la teoria della giustificazione che tra l'altro rientra in queste dissociazioni confessionali, per giustificare i profitti dell'anima o per non escluderli. Cioè le anime del profitto, qui c'è tutto un ripensamento, le anime del profitto vengono ripensate in funzione a una non rinuncia di profitti dell'anima. Quindi è una riforma, una controriforma, che nel momento in cui si scontrano, però creano forse, anche qui, e qui forse l'amica Rossetti potrebbe prendere degli spunti anche medievali, da Sant'Antonino in poi, a farmi capire questa che qui forse trova la sua espressione nel concreto, voglio dire, non a livello teologico, puramente filosofico e concettuale, ma nel concreto. Cioè c'è tutta questa trama di cose che mi colpiscono, mi prendono, insomma, l'informatica, la concettualità, il ripensamento, giusto quello che diceva anche Muto prima, il fatto di arrivare ai gangli vitali dei governi locali. Ma perché i gangli vitali? Per avere un governo superiore, per essere quasi d'accordo, sotto sotto c'è un accordo superiore, perché tutti fanno così. Il Tommaso Marino che arriva a Milano è il Borromeo precedente, di 2 secoli prima, che aveva preso certe, o il Barghi e il Peruzzi, che avevano preso certe leve di comando, il Ministero delle Finanze inglesi, e via dicendo, no? Già allora, quindi la linea, la tendenza è questa, quindi lo Stato sì, ma lo Stato non deve essere tale da impedire che il sovrastato possa sopravvivere, e sopravvivere bene, e rafforzarsi. Quindi c'è tutta questa rete di tensioni, di variabili, eccetera, che devono essere prese in considerazione, mi sembra. Certo, noi qui buttiamo là adesso questi semi, poi speriamo che i frutti siano raccolti, e qui e dopo. Volevo dire che ha fatto un'osservazione giusta. Qui si è parlato di divergenze tra Venezia e Genova, ma sarebbe forse il caso di parlare delle concordanze, ad un certo momento, è giustissima l'osservazione delle concordanze. Il cambio ad Venezia ha un significato. Tutto questo c'è. Tante grazie per queste osservazioni. Questa sessione è chiusa, però è possibile di continuare la discussione? No, adesso no, il pomeriggio. Grazie. Grazie.